Benvenuti a tutti, puntata numero 6 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Siamo reduci da una strepitosa NBA Christmas Night, proviamo subito a raccontarla perché si è trattato di una serie di partite molto molto interessanti. Del resto la notte di Natale per l'NBA è una vetrina importante, si sfidano le squadre con il maggior appeal da un punto di vista anche commerciale di tutta la Lega. Si sfidano una dopo l'altra, il che permette, nel nostro caso ovviamente, a chi abbia la forza di restare sveglio fino alla mattina dopo, di vedere una dopo l'altra tutte le partite in programma. Iniziamo subito a descriverle. Si inizia alle nostre 6 del pomeriggio. Boston Celtics contro New York Knicks al Madison Square Garden. 119-114 per la squadra ospite. Ci sono 27 punti di Isaiah Thomas, seppur con 9 su 23 dal campo, 16 per Crowder, 15 con 7 rimbalzi per Horford e 15 importantissimi punti dalla panchina per Smart. Per i New York Knicks a niente servono i 29 punti di Carmelo Anthony, i 22 con 12 rimbalzi di Porzingis e i 25 di Derrick Rose. Partita piuttosto sentita dalle due squadre, Boston la gestisce sempre più o meno in vantaggio fino all'ultimo quarto grazie al solito Isaiah Thomas. New York però si mantiene in scia grazie a un ottimo Derrick Rose e al solito Carmelo Anthony, che suona la carica per la rimonta insieme a Lettone Porzingis, che negli ultimi due minuti ispira la parità a 112 siglata proprio da Anthony dopo aver segnato una tripla e un canestro con fallo in contropiede. L'azione decisiva però è la seguente nella metà campo di Boston. Horford lavora in aria, palla fuori per Smart che segna la tripla del più 3. Dall'altra parte se la gioca ovviamente il maschio alfa Carmelo Anthony. Solo sul ferro la sua prima tripla, palla che però resta nelle mani dei Knicks grazie al tap out di Noah. Anthony a questo punto decide di giocarsi l'isolamento ma si fa rubare il pallone dall'ottimo Bradley, la partita finisce qui, Boston corsara al Madison Square Garden. Subito dopo questa inizia il partitone della notte, quello atteso e dichiarato, il remake della finale NBA dello scorso anno. Alla Quick and Loans Arena i Cleveland Cavaliers battono i Golden State Warriors in rimonta e all'ultimo tiro, 109-108. Partitone di Kevin Durant per la squadra ospite, 36 punti e 15 rimbalzi. 16 per un Damon Green partito un po' nervosetto, 24 per Klay Thompson e 15 per uno Stephen Curry a tratti fuori dal gioco. Tra i campioni in carica invece, solita giornata di routine per Kevin Love con 20 punti, 31 punti e 13 rimbalzi per uno splendido LeBron James, 25 con 10 assist per Kyrie Irving. Entrano soltanto 3 giocatori dalla panchina per i Cavs, ma ognuno fa ampiamente il suo dovere. 10 punti per Channing Frye, 8 per Richard Jefferson, 7 per Imam Shumpert, questi due abbastanza decisivi nell'ultimo quarto. Cleveland tira male, tira con il 39% dal campo di squadra contro il 48% dei Golden State Warriors. La partita inizia bella nervosa, è infatti il rematch della finale come detto, ma soprattutto è il primo paragrafo annuale di una rivalità conclamata che ci auguriamo di poter rivedere anche in finale a giugno, almeno io me lo auguro. Durant come detto parte fortissimo, ispirato probabilmente dalla sfida personale contro LeBron. Il primo quarto si accende nella sua seconda metà, proprio quando ad una schiacciata dell'ex OKC risponde immediatamente e direttamente alla rimessa King James. Rispondono presente più o meno tutti i protagonisti attesi, meno Steph Curry. Ci pensano gli altri 3 degli Warriors, Thompson, Durant e Green, a creare un vantaggio non profondo ma costante per Golden State. Dall'altra parte il cuore e la classe dell'imprendibile Kyrie Irving e un LeBron James che attratti dalla sensazione di poter fare veramente quello che vuole mantengono a galla Cleveland. Nel terzo quarto Cleveland resta in scia proprio grazie a 4 triple del re James. A inizio quarto periodo i Warriors arrivano al vantaggio più ampio della partita, 14 punti, ma poi si accende Kyrie Irving e inizia la rimonta della squadra di casa. Due schiacciate del vecchio Richard Jefferson fanno esplodere la Quick and Loans Arena, soprattutto la seconda in faccia a Klay Thompson. Si entra negli ultimi 2 minuti di partita, 2 minuti entusiasmanti. Irving e LeBron James combinano per il vantaggio di Cleveland 105-103 con una fantastica schiacciata di LeBron. Dall'altra parte però non si molla. Palla Stephen Curry, tripla del più 3 a 40 secondi dalla fine. Sembra finita, ma non è assolutamente così, perché dall'altra parte c'è Kyrie Irving. Segna in penetrazione il meno 1, poi gestisce l'ultimo pallone in seguito a una splendida azione difensiva dei Cavs che forzano lo scadere dei 24 secondi agli Warriors. A 3 secondi dalla fine segna un canestro pazzesco cadendo indietro sull'ottima difesa di Klay Thompson, 109-108. Finisce così come era finita a giugno, Kyrie Irving decisivo, il cuore di Cleveland che batte il talento realizzativo degli Warriors nonostante un Kevin Durant in più. Ad oggi, a mio avviso, ovviamente, la miglior partita di tutta la regular season. Si prosegue poi a San Antonio. con gli Spurs vincenti sui Chicago Bulls per 119-100. 24 punti con 6 assist per Dwayne Wade e 19 di Butler non bastano quando dall'altra parte hai un LaMarcus Aldridge da 33 punti e 9 rimbalzi e un Kawhi Leonard da 25 con 10 assist. 13 punti anche per un ottimo Tony Parker. Gli Spurs partono rapidissimi proprio con Aldridge e Leonard e creano ottime soluzioni per comodissimi tiri dalla media distanza. Chicago nel primo quarto non riesce a rispondere difensivamente al gioco di squadra degli Spurs e alle individualità di questi due giocatori che abbiamo appena citato. Chicago però riesce a rientrare lentamente in partita nel secondo quarto per completare la rimonta nel terzo periodo, ispirata dal solito Dwayne Wade che impatta sul 63 pari con una tripla. Gli Spurs scavano però il parziale decisivo a inizio quarto periodo, con due triple di Danny Green, una tripla allo scadere dei 24 secondi di Leonard, spettacolare, e il solito LaMarcus Aldridge, aiutato da Tony Parker. Tutto il resto è garbage time e gli Spurs chiudono con quasi il 60% dal campo di squadra e 9 su 18 da 3. Si prosegue restando ad ovest. Prevedibile Russell Westbrook show nella vittoria di OKC per 112-100 sui Minnesota Timberwolves. Ci sono 31 punti, 15 assist e 7 rimbalzi per Westbrook, 22 punti per Adams e 20 dalla panchina di un ottimo Kanter. Tra i giovani Wolves il solito Karl Anthony Towns con 26 e 8 rimbalzi, Andrew Wiggins ne mette 23, 16 per Zach LaVine, ci sono anche 15 punti alla panchina per Mohamed, ma non bastano. Si chiude la notte di Natale con il derby di Los Angeles, imprevedibilmente, almeno sulla carta, andato ai Los Angeles Lakers per 111-102. I giallo-viola hanno la bellezza di 7 giocatori in doppia cifra, tra i quali spiccano 19 punti di Nick Young e 19 di un gigantesco Mozgov. Tra i Clippers non gioca Chris Paul, non c'è Blake Griffin, provano a reggere la baracca JJ Redick con 22 punti e 4 su 7 da 3 e Jamal Crawford con 22 punti alla panchina. 15 punti alla panchina anche per Spades non sono sufficienti, il derby di LA va ovviamente ai Lakers. Proseguiamo velocemente perché non c'è stata solamente la Christmas Night, proviamo rapidamente a ricordare almeno le top performance della settimana 20 dicembre. LeBron James ne mette 34 con 12 rimbalzi e 7 assist nella vittoria contro i Milwaukee Bucks. Il piccolo Isaiah Thomas invece ne mette 44 a Memphis per la vittoria dei Boston Celtics sui Grizzlies. 35 di Carmelo Anthony al Madison Square Garden contro i Pacers e 55 oramai famosissimi punti di DeMarcus Cousins nella vittoria rocambolesca di Sacramento contro i Portland Trail Blazers, in cui lo stesso Cousins riesce a farsi espellere e incredibilmente riammettere in campo nel finale. 21 dicembre, ci sono 38 punti di Marc Gasol nella vittoria dei Grizzlies a Detroit e 42 punti di Russell Westbrook nella vittoria contro i Pelicans. 22 dicembre, Los Angeles Clippers battono in casa i San Antonio Spurs 106-101, grazie al solito Chris Paul, regista e genio dell'operazione. 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Dall'altra parte non servono a niente i 27 con 9 rimbalzi di Kawhi Leonard. Contemporaneamente, gli Warriors nel loro tour ad est vincono contro i Brooklyn Nets con un ottimo Brook Lopez da 28 punti, ma più decisivo, dalla parte ovviamente dei Warriors vincitori, Kevin Durant con 26 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. 23 dicembre, i Thunder battono Boston in trasferta 117-112. 45 punti, 11 rimbalzi, 11 assist per il solito incredibile Russell Westbrook. 34 punti e 10 rimbalzi per, dall'altra parte, Isaiah Thomas. Una sfida non malaccia assolutamente. Stessa notte, vittoria di Milwaukee contro Washington, con Giannis che ne mette 39. A Minnesota, sconfitta contro Sacramento, c'è uno Zach LaVine da 40 punti, dall'altra parte però 32 di un grandissimo DeMarcus Cousins, veramente ispirato in questa fase della stagione. 26 dicembre, cioè la notte appena passata, la sorpresa sulla carta la fanno i Detroit Pistons, che piegano i campioni in carica di Cleveland per 106-90. Sulla carta però, perché per Cleveland è assente LeBron James e l'eroe di Natale Kyrie Irving chiude con 8 su 20 dal campo. Detroit sfiora il 60% dal campo contro il 39% dei Cavs, il risultato non poteva non essere così. Houston invece segna 132 punti contro i soli, tra virgolette, 115 dei Phoenix Suns. Il barbone Harden ne mette 32 con 12 assist. Sfida da centri, sempre nella notte, molto interessante nella vittoria di Sacramento su Philadelphia 76ers per 102-100. Il tiro decisivo è una tripla nell'ultimo minuto di partita di DeMarcus Cousins, che chiude la gara con 30 punti. Dall'altra parte ci sono 25 punti in 29 minuti per Joel Embiid, che però si fa stoppare la tripla decisiva della potenziale vittoria, quindi non proprio decisiva, proprio da DeMarcus Cousins. Chiudiamo citando i Brooklyn Nets, che piegano all'ultimo tiro i Charlotte Hornets con un buzzer beater di Randy Foy, partita per la squadra di casa 120-118. Proseguiamo con la rimembranza della settimana. Prendiamo la macchina del tempo e questa settimana andiamo a Chicago, Illinois, il primo di giugno 1997. Si gioca gara 1 della prima delle due serie finali tra i Chicago Bulls e gli Utah Jazz. Partita epica, memorabile, di quelle che sono destinate a lasciare un'impronta nella carriera dei giocatori che la giocano e anche nella storia della Lega. I Jazz arrivano a quella finale dopo una cavalcata playoff strepitosa e dopo una tripla decisiva di John Stockton e Houston in gara 6 che distrugge i sogni di gloria del Dream Team Made in Texas con Barkley, Drexler e Olajuwon. Chicago invece fatica un po' meno, loro sono i campioni in carica e come succedeva spesso in quegli anni avanzano a testa bassa verso la finale come se fossero in missione, seppellendo Washington, Atlanta e Miami. Si arriva così al United Center per gara 1 e tutti gli occhi sono puntati sulla sfida tra l'MVP stagionale Karl Malone contro l'MVP di sempre Michael Jordan. La partita è bellissima e arriva in volata. Scottie Pippen segna la tripla del più 2 a 1 minuto e 11 dalla fine. Dall'altra parte John Stockton risponde da dietro l'arco per il più 1 Jazz. Si va dall'altra parte. Il fallo di Jeff Hornacek su Michael Jordan manda MJ in lunetta. Solo 1 su 2 è liberi. Partita quindi in parità e palla aiuta. Tutti aspettano l'MVP della stagione Karl Malone, che finisce in lunetta a causa di un fallo di Dennis Rodman a 9 secondi dalla fine. Come Nick Anderson qualche anno prima, Malone si presenta alla lunetta con la pressione e la tensione di chi si trova a un passo da una vittoria potenzialmente storica alla prima finale della carriera e in trasferta contro Jordan e Pippen. La leggenda narra che quest'ultimo, Scottie Pippen, gli si avvicina e gli sussurri: "Remember, the mailman doesn't deliver on Sunday, Carl", cioè il postino non consegna di domenica, ispirandosi a quel soprannome che ha contraddistinto la carriera di Malone, che molti ricordano ad oggi come la più forte alla grande di sempre. A mio avviso assolutamente no, anche perché, come stiamo per vedere, nei momenti decisivi spesso non è stato presente. Infatti, la reazione dopo il primo errore ai liberi di Malone dichiara già il destino del secondo. Anche il secondo libero balla sul ferro ed esce, 0 su 2. C'è un fermo immagine che mostra proprio l'espressione distrutta, delusa di Malone mentre indietreggia dopo l'errore guardando a terra. Siamo pari, rimessa a Chicago, palla nelle mani di chi secondo voi? Ovviamente del vero MVP, quello con il numero 23 sulla maglia. 9 secondi sul cronometro, isolamento 1 contro 1 di Jordan contro Brian Russell. Nessun raddoppio, jump shot, solo rete. Sirena, Chicago vince all'ultimo secondo gara 1. Chicago riuscirà anche a vincere ovviamente quella serie finale, malgrado Utah, che riuscirà a rientrare nella serie in qualche modo fino a una strepitosa gara 5 a Salt Lake City, famosissima, il Nausea Game di Michael Jordan, quello in cui lui, in condizioni disastrose a causa di una presunta intossicazione alimentare, segnerà 38 punti e la tripla decisiva per riportare la serie a Chicago sul 3-2 di vantaggio. In quella decisiva gara 6, Jordan lascerà il tiro della vittoria a Steve Kerr, quello Steve Kerr che oggi siede sulla panchina dei Golden State Warriors come allenatore. Sarà lui quindi a chiudere una serie leggendaria destinata poi a replicarsi l'anno seguente. Si tratta di un'altra storia, probabilmente ne parleremo perché anche in quella decisiva gara 6 del 1998, in quel remake di finale tra Bulls e Jazz, nelle ultime azioni il postino Karl Malone, atteso da tutti, farà un piccolo errore di distrazione che risulterà decisivo. Ne parleremo prima o poi. Intanto vi invito a rivedere i video di cui abbiamo parlato nel nostro blog medium.com/NBAweek. Venerdì mattina sarà presente il blog post della settimana con appunto tutti i video e anche un video molto interessante di selezione da rivedere di questa partita, che è una partita veramente molto bella. Mi riferisco ovviamente a questa tra Bulls e Jazz, a questa gara 1 del 97. Noi vi salutiamo a questo punto, vi auguriamo un ottimo inizio di 2017, questa è l'ultima puntata dell'anno per NBA Week, vogliamo rassicurarvi perché ci stiamo divertendo molto, mi sto divertendo molto, continuo a parlare al plurale, ma in realtà è una questione singolare questa trasmissione, è stato un esperimento, sto credo prendendo un po' più di confidenza sia con la preparazione della puntata che con il microfono, in realtà sto divertendomi molto sia a seguire in maniera semiprofessionale la stagione, perché comunque l'avrei seguita lo stesso, però la responsabilità di doverla raccontare a un microfono mi porta più o meno tutti i giorni a vedere qualcosa, a tornare a casa al lavoro trafelato per rivedermi le selezioni delle partite più interessanti, ad appuntarmi le statistiche, insomma sto giocando a fare il giornalista sportivo, tra virgolette, mi sto piuttosto divertendo, quindi per me resta un onore, un piacere poter proseguire con questa esperienza. Lo faremo, garantisco, almeno fino all'ultima partita di finale del 2017, poi valuteremo un po'. Se ovviamente avete feedback, avete consigli, avete critiche, avete qualsiasi tipo di cosa, fateli ovunque. Colgo l'occasione anche per ringraziare, oltre a Radio Big World, per la fiducia data e riposta in me fin dall'inizio, anche l'amico Belli13, che continua settimanalmente a mettere online le nostre trasmissioni radio in podcast attraverso il suo canale YouTube, a farcirle con immagini ad hoc man mano che la narrazione va avanti, e quindi veramente grazie per la sua disponibilità. Grazie a tutti per l'ascolto, che il 2017 per voi inizi in maniera sicuramente migliore del 2016, a prescindere da come vi si è chiuso. Ancora grazie per l'attenzione, Julian Carax vi saluta, alla prossima settimana. It's over. It's over. It's over.